Miei cari genitori, se il cielo fosse di carta e tutti i mari del mondo inchiostro, non potrei descrivervi le mie sofferenze e tutto ciò che vedo intorno a me. Il campo si trova in una radura. Sin dal mattino ci cacciano al lavoro nella foresta. I miei piedi sanguinano perché ci hanno portato via le scarpe. Tutto il giorno lavoriamo quasi senza mangiare e la notte dormiamo sulla terra. Ci hanno portato via anche i nostri mantelli. Ogni notte i soldati ubriachi vengono a picchiarci con bastoni di legno e il mio corpo è nero di lividi come un pezzo di legno bruciacchiato. Alle volte ci gettano qualche carota cruda, una barbabietola, ed è una vergogna. Ci si batte per averne un pezzetto e persino qualche foglia. L'altro giorno due ragazzi sono scappati. Allora ci hanno messo in fila e ogni quinto della fila veniva fucilato. Io non ero il quinto, ma so che non uscirò vivo di qui. Dico addio a tutti, cara mamma, caro papà, mie sorelle e miei fratelli, e piango. Se il cielo fosse bianco di carta e tutti i mari neri d'inchiostro, non saprei dire a voi miei cari quanta tristezza c'ho in fondo al cuore. Qual è il pianto, qual è il dolore? Qui intorno a me si sveglia l'alba nel livore di noi sparsi nella foresta a tagliar legna seminudi, coi piedi torti e sanguinanti. Ci han levato scarpe e mantelli, dormiamo in terra quasi ogni notte come un rito. Ci danno la sveglia bastonate, Franz ride e lancia una carota e noi come larve affamate ci si contende unghie e denti. L'ultima foglia, due ragazzi sono fuggiti, ci hanno raccolti in un quadrato, uno su cinque han fucilato, ma anche se io non ero un quinto, non ha domani questo campo. Io non vivo. Questo è l'addio a tutti voi, genitori cari, fratelli amici, vi saluto e piango, Caino.